Per un animale, ambiente naturale e habitat sono un dato. Per l'uomo, nonostante la fiducia degli empiristi, la realtà non è un dato. Essa va di continuo cercata, trattenuta. Sono tentato di dire salvata. Ci viene insegnato a contrapporre reale e immaginario, come se il primo fosse sempre a portata di mano e il secondo distante, remoto. Questa contrapposizione è falsa. Gli eventi sono sempre a portata di mano, ma la coerenza di tali eventi, che è ciò che intendiamo per realtà, è una costruzione della fantasia. La realtà si trova sempre al di là, e questo vale tanto per i materialisti quanto per gli idealisti, per Platone, per Marx. La realtà, comunque la si interpreti, si trova al di là di uno schermo di cliché. Ogni cultura produce tale schermo, in parte per facilitare le proprie pratiche, per stabilire delle abitudini, e in parte per consolidare il proprio potere. La realtà è nemica di chi ha potere. Tutti gli artisti moderni hanno pensato che le loro innovazioni offrissero un approccio più intimo alla realtà, che fossero un modo di renderla più evidente. È qui, e soltanto qui, che l'artista moderno e il rivoluzionario si sono talvolta trovati fianco a fianco, ispirati entrambi dall'idea di abbattere lo schermo dei cliché, cliché che a poco si sono fatti triviali ed egoistici come mai prima d'ora. Tuttavia, molti di questi artisti hanno rimpicciolito ciò che avevano trovato al di là dello schermo per adeguare il loro talento alla loro posizione sociale di artisti. Quando questo è accaduto, si sono giustificati con una delle infinite varianti della teoria dell'arte per l'arte. Dicono: la realtà è arte. Sperano di ricavare un profitto artistico dalla realtà. Per nessuno questo è meno vero che per Van Gogh. Sappiamo dalle sue lettere con quanta intensità egli fosse cosciente dello schermo. L'intera storia della sua vita parla di un insaziabile anelito di realtà. I colori, il clima mediterraneo, il sole erano per lui veicoli che andavano verso questa realtà. Non erano mai oggetti di desiderio in sé. Questo anelito era intensificato dalle crisi di cui soffriva quando sentiva di non riuscire a salvare assolutamente nessuna realtà. Che oggi tali crisi vengano diagnosticate come schizofrenia o epilettiche non cambia nulla. Il loro contenuto, in quanto distinto dalla loro patologia, era una visione della realtà che si consumava come una fenice. Dalle sue lettere sappiamo anche che nulla gli pareva più sacro del lavoro. Egli vedeva la realtà fisica del lavoro come, al tempo stesso, una necessità, un'ingiustizia e l'essenza dell'umanità attraverso la storia. L'atto creativo dell'artista era, per lui, soltanto uno tra i tanti. Era convinto che la realtà potesse essere avvicinata meglio attraverso il lavoro, proprio perché è essa stessa una forma di produzione. I suoi dipinti ne parlano più chiaramente delle parole. La loro cosiddetta goffaggine, i gesti con i quali disegnava a pigmento sulle tele, i gesti, oggi invisibili ma immaginabili, con i quali sceglieva e mescolava i colori sulla tavolozza, tutti i gesti con i quali maneggiava e fabbricava la materia dell'immagine dipinta, sono analoghi all'attività dell'esistenza di ciò che stava dipingendo. I suoi quadri imitano l'esistenza attiva, la fatica di essere, di ciò che descrivono. Una sedia, un letto, un paio di stivali. Nel dipingerli, nessun altro pittore era andato più vicino di lui al fabbricarli del falegname o del calzolaio. Van Gogh mette insieme gli elementi del prodotto: gambe, traversine, schienale, sedile, suola, tomaie, linguetta, tacco, come se anche lui stesse assemblandoli, congiungendoli, e come se questo essere congiunti costituisse la loro realtà. Davanti a un paesaggio, lo stesso processo era assai più complicato e misterioso. E tuttavia seguiva lo stesso principio. Se immaginiamo Dio nell'atto di creare il mondo dalla terra e dall'acqua, dall'argilla, il suo modo di maneggiare un albero o un campo di grano può ben ricordare il modo in cui Van Gogh maneggiava la vernice quando dipingeva un albero o un campo di grano. Egli era umano, in lui non vi era nulla di divino. Se, però, si pensa alla creazione del mondo, si riesce a immaginare l'atto soltanto attraverso l'evidenza visiva, qui e ora, dell'energia delle forze in gioco. E con queste energie Van Gogh era tremendamente in sintonia. Quando dipingeva un piccolo pero in fiore, il montare della linfa, il formarsi della gemma, il suo rompersi, l'aprirsi del fiore, lo spuntare degli stili, l'indurirsi degli stigmi, per Per lui tutti questi atti erano presenti nell'atto del dipingere. Quando dipingeva una strada, i manovali che l'avevano costruita erano là, nella sua immaginazione. Quando dipingeva le zolle smosse di un campo arato, il gesto della lama che rivolta il terreno era compreso nel suo stesso atto. Ovunque guardasse, vedeva la fatica dell'esistenza, e questa fatica, riconosciuta come tale, era ciò che per lui costituiva la realtà. Quando dipingeva il proprio viso, dipingeva il prodursi del suo destino, passato e futuro, un po' come i chiromanti credono di poterlo leggere nelle linee della mano. I suoi contemporanei, che lo consideravano anormale, non erano tutti stupidi come ora si vuole credere. Egli dipingeva compulsivamente, nessun altro pittore fu mai compulsivo al pari di lui. E la sua coazione? Accostare sempre di più due atti della produzione, quello della tela e quello della realtà raffigurata. Questa coazione non derivava da un'idea dell'arte, ecco perché non gli venne mai in mente di trarre un profitto dalla realtà, ma da un travolgente sentimento di empatia. Ammiro il toro, l'aquila e l'uomo con un'adorazione talmente intensa che di certo mi impedirà di diventare mai una persona ambiziosa. Era spinto ad andare sempre più vicino, ad avvicinarsi, avvicinarsi, avvicinarsi. In extremis si avvicinava così tanto che le stelle nel cielo notturno diventano vortici di luce, i cipressi gangli di legno vivo che reagisce all'energia del vento e del sole. Ci sono tele dove la realtà dissolve lui, il pittore, ma in centinaia d'altre egli porta l'osservatore quanto più vicino è umanamente possibile, mantenendosi intatto a quel processo permanente attraverso cui la realtà si produce. Una volta, molto tempo fa, i dipinti venivano paragonati a specchi. Le opere di Van Gogh potrebbero essere paragonate a laser. Non aspettano di ricevere, vanno fuori a incontrare, e ciò che attraversano è non tanto lo spazio vuoto, quanto l'atto di produzione, la produzione del mondo. Non smettere di dipingere è un modo di dire, con timore reverenziale, ma scarsa consolazione, prova a venire a questa distanza e vedi come funziona.